la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado, porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz. Ore 20 e 13, martedì autogestito da femministe e lesbiche di Radio Onda Rossa. Iniziamo con il mini pimer di questa sera. Si tratta dell'incontro con Isabella Lo Russo, una scrittrice, autrice di Spagna 36, Voce dal POUM, Otto Congo e Storia di un femminicidio, narrazione di viaggio, transito di esistenza colta nel momento della trasformazione e tante storie di resistenza politica. Perché io sono mujer, e tutto lo che mi passa non me lo puedo creer. Canto tu e la mentira e los cholos me ven. Si lo quiero, no quiero, es mi gusto querer. De tu carne a mi carne, dame taco de res. Los prefiero y los quiero al que me dé de comer. Ya probé el que es ajeno a ese pa' que lo quiero. Que la voluntad del cielo me mande al primero. Volevo chiederti qualcosa riguardo alla condizione della donna durante il periodo della guerra civile. So che tu sei stata intervistata da Mary Nash durante la stesura del suo libro Donne e Movimento Operaio in Spagna 1931-1939. Sì, ho avuto vari colloqui con lei durante la stesura del suo libro. Quello che a lei interessava soprattutto era la condizione della donna all'interno delle organizzazioni politiche rivoluzionarie della sinistra moderata e rivoluzionaria. Quello che ne viene fuori è un quadro davvero desolante. Come si dice, rivoluzionari fuori e conservatori dentro. Ecco, molti compagni ritenevano che la differenza di genere semplicemente non esisteva, o se esisteva non era così importante come quella di classe. Riducevano le nostre rivendicazioni femministe alla semplice dimensione economica. Per loro un aumento di salario avrebbe risolto tutti i nostri problemi esistenziali. Non avevano capito assolutamente nulla di quello che volevamo, delle potenzialità che esprimevamo. Questa è una parte che ora continueremo a leggere del libro di Isabella Lo Russo, Spagna 36, Voci dal POUM, libro del 2010. Era la classica logica comune all'interno del pensiero marxista della rivoluzione in due tempi, della rivoluzione che, una volta attuata, risolverà tutti i problemi esistenziali di tutte le minoranze politiche, e con minoranza intendo un gruppo sociale a cui manca il potere sociale. Per i marxisti la rivoluzione avrebbe risolto tutto, avrebbe risolto la contraddizione di genere, quella di classe, quella di razza. Basti vedere quello che è accaduto nei paesi dell'est. Sì, le donne hanno conquistato il diritto all'aborto, al divorzio, ad un lavoro dignitoso, ma quando tornano a casa sono loro che accudiscono i figli, che preparano da mangiare. Il potere politico lo gestiscono gli uomini in ogni parte del mondo e non lo lasciano così facilmente. Durante il periodo della guerra civile, come erano strutturati i gruppi di donne? Ce n'erano di diversi tipi. C'erano delle organizzazioni femminili che erano in perfetta sintonia con la linea politica del partito e non ritenevano opportuno in alcun modo entrare in conflitto con la componente maschile del gruppo. Loro dicevano: le donne e gli uomini in questo momento storico lottano per raggiungere gli stessi obiettivi. La nostra lotta deve essere condotta a fianco degli uomini in maniera non conflittuale. Poi c'erano altri gruppi, che potremmo definire femministi, anche se all'epoca nessuna di noi parlava di femminismo, che lottavano per le rivendicazioni specifiche delle donne. Questi gruppi erano in conflitto con il potere maschile. Fra questi c'erano le donne di Mujeres Libres, che si ispirava in maniera più o meno diretta all'ideale anarchico. Queste donne furono molto coraggiose a rivendicare i loro diritti, entrando sempre apertamente in conflitto con i settori più radicali del movimento rivoluzionario spagnolo. Dire ad un combattente che era lì sulle barricate che quando tornava a casa doveva aiutare la moglie in cucina, che doveva accudire i suoi figli, non era la cosa più semplice del mondo. Era proprio strano vedere come questi compagni, che avrebbero voluto cambiare il mondo, nella pratica non volevano assolutamente mettere in discussione se stessi. I compagni cadono sempre e comunque in questa trappola. Possono dire tutto quello che vogliono del sistema capitalista, che è ingiusto, crudele, meschino, ma a loro il sistema patriarcale fa brillare gli occhi, li pone in una posizione di privilegio dalla quale ovviamente non vorrebbero retrocedere. Il fatto è che poi quando le donne si organizzano autonomamente le considerano separatiste, settarie, poco propense a lottare per la vera rivoluzione proletaria. La cosa incredibile, quando dicono cose di questo genere, è che decine e decine di assemblee spesso sono portate avanti da soli uomini e nessuno dice nulla, nessuno si ribella. Non ho mai visto un compagno che all'improvviso si alza in piedi e pone collettivamente la questione che le donne sono perennemente assenti dalle lotte sociali. All'epoca si diceva di pazientare, di attendere. Con la rivoluzione si sarebbero costruiti asili nido, mense popolari, scuole pubbliche. Ci dicevano questo per rassicurarci, non rendendosi conto del fatto che davano per scontato che certi tipi di lavori li dovevamo sempre e comunque svolgere noi. Dicevano che eravamo separatiste, fingendo di non accorgersi che i veri separatisti erano loro. A loro piacerebbe vederci belle, buone e obbedienti. Non siamo mica un elettrodomestico da usare con il telecomando. Tu comunque eri una donna indipendente in quel tempo. Sì, ma mi costò tanto esserlo. All'epoca bisognava lottare contro tanti, troppi pregiudizi. Vi assicuro che la cosa non era per nulla facile. Io lavoravo, facevo politica, uscivo di sera con gli amici. Tante persone mi additavano, tante persone mi giudicavano. Quando andai in Francia nel 38 mi resi conto che lì la condizione della donna era migliore che in Spagna e provai invidia per quelle donne che avevano più libertà di noi. Io volevo far politica, non volevo soltanto interessarmi della cura dei miei bambini. Pero si una mujer pelea por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. E allora sì, appunto, abbiamo letto una piccola parte del libro di Isabella Lo Russo, Spagna 36, voci dal POUM, a due voci perché si tratta di un libro appunto di interviste realizzate dall'autrice, ovviamente fra pochissimo sentiremo al telefono, e quindi abbiamo scelto, insomma, anche su suggerimento suo, una parte di queste interviste che ovviamente sono ampie e riguardano appunto la Spagna del 36. Te segui los pasos, niña, hasta llegar a la montaña, y segui la ruta de Dios que las ánimas acompaña. Te segui los pasos, niña, hasta llegar a la montaña, y segui la ruta de Dios que las ánimas acompañan. Que las ánimas acompañan, que las ánimas acompañan, que las ánimas acompañan. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Hay en la noche un grito. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. Es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada, pero si una mujer, pero pelea por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. Madre preciosa, ruega por madre ella, cariñosa, ruega por ella, madre misericordiosa, ruega por ella. Torniamo in voce, martedì autogestito da Femministe e Lesbiche di Radio Onda Rossa. Stiamo portando avanti, insomma, il mini primer di stasera, che è un incontro con Isabella Lorusso, scrittrice. Pronto Isabella, ci senti? Sì, ci pronto, senti. Pronto, vi sento. Buonasera a tutte. Ciao. E a tutti da Palermo, un saluto da Palermo. Che bello che sei a Palermo. Sì. Senti, ma eri lì per il Pride? Così mi faccio sì, un sì, po' gli sì, affari. Sono venuta qui giù a Palermo per il Pride e domani torno a Bologna, per cui ho approfittato per stare un po' di giorni qui per vedere questo clima meraviglioso di questa città. È stato bello. Grazie il Pride. Per invitarmi. Sì, è stato meraviglioso, 100.000 persone, forse anche di più, un clima e una cosa che dovevamo alla città di Palermo, ci hanno accolto meravigliosamente, quindi niente, ho approfittato per andare un po' al mare e per frequentare, diciamo, un po' l'ambiente al di là del Pride, quindi molto contenta, sì, meraviglioso. Senti Isabella, ti vuoi presentare alle ascoltatrici e agli ascoltatori del martedì? Ci vuoi raccontare chi sei? Ecco, io diciamo, per dire qualcosa di me dal punto di vista, diciamo, delle pubblicazioni che ho realizzato, in questo momento abbiamo tre libri che ho realizzato. Il primo è stato Voci dal Poum, no? Si chiamano Voci perché nel 95 sono andata in Spagna a realizzare una ricerca sulla guerra civile spagnola e ho avuto la possibilità di incontrare i militanti del Poum, del Partito Operaio di Unificazione Marxista, nelle cui file militava anche George Orwell, sicuramente tra i più conosciuti, diciamo, di questo partito. Quindi, siccome io parlavo poco lo spagnolo e mi sembrava impressionante che questi militanti fossero ritornati in Spagna dopo la fine della guerra civile, dopo l'esilio, dopo tante cose che erano successe lì, ho pensato bene di intervistarli. Poi sono andata a vivere in America Latina e anni dopo, cioè nel 2008, mi hanno ricontattato quelli della Fondazione Andreu Nin, perché di fatto ero stata l'unica persona al mondo, diciamo, ad averli intervistati, perché tanto si era scritto sul POM come partito dal punto di vista politico, però nessuno li aveva conosciuti e tantomeno li ho intervistati, per cui c'era una proposta della Fondazione di scrivere un libro in spagnolo che è appunto lo stesso, con lo stesso titolo, no? Voces del POM, e quindi ho stato prima di tutto lanciato in Spagna. Per me è stato meraviglioso perché intanto appunto avevo avuto questa esperienza di vivere per degli anni in America Latina, di viaggiare tanto, e quindi è stato il mio primo rapporto con un libro, no? Pubblicato da me, che è stato ovviamente diciamo presentato a Madrid, a Barcellona, ma anche poi con l'Istituto Cervantes, quindi in lingua spagnola, anche a Mosca addirittura. Per cui, insomma, è stato questo mio primo stimolo, no? Diciamo, alla scrittura, e poi dopodiché è andato un po' avanti, diciamo, no? È stato un po' un primo approccio. È un primo approccio con la sfera orale, perché non avevo grande esperienza a fare delle interviste a delle persone straordinarie che avevano vissuto avvenimenti importantissimi, no? Per noi, soprattutto questi del POM, perché sono dei marxisti, ma sono critici rispetto allo stalinismo, per cui insomma ho raccolto queste testimonianze che erano importanti per me, mi hanno fatto crescere, e poi il libro è stato persino tradotto in italiano e pubblicato con la casa editrice Ibiscos, no? Che è di Empoli, che mi ha dato una grande fiducia, e quindi poi in questi anni è stato anche presentato in varie città italiane, no? Da Trieste a Milano, a Roma, a Taranto, a Bari, insomma è stato il mio primo rapporto, diciamo, con il mondo editoriale. Dopodiché, diciamo, rispetto ai miei anni d'America Latina, ho visto delle cose per me molto importanti, perché io sono da lì per insegnare italiano nelle università, questi anni non sono mai tornata in Europa, per cui ho viaggiato tantissimo, ho viaggiato per due mesi, dalla Patagonia al Cile all'Argentina. Ho insegnato italiano non solo nelle università, ma anche nelle carceri, e ho lavorato con i diritti umani, per cui poi abbiamo avuto il secondo libro, che si chiama Otto Congo, no? Che è un nome che sembra un po' diciamo più africano che latinoamericano, ma parla proprio di un ponte di Lima, no? Quindi parte tutto. E la mia ultima esperienza è con una storia personale che ho avuto, e che appunto sul femminicidio, e il titolo del libro è T13, storia di un femminicidio. Non so, sono stata un po' così sintetica rispetto a questo. Sì, no, infatti, vabbè, ci hai fatto una panoramica e sono i libri di cui appunto un po' approfondiremo stasera. Sì. Senti, ma intanto perché T1-3 ci chiedevamo? Ecco, T1-3 è diciamo è una strada, è una casa, nel senso che per tanti anni una strada particolare che è ad Ostuni, no? La città nella quale io sono nata, e quindi sarebbe il nome della strada che è Via Trentese numero 13, per cui c'è stato un desiderio per 20 anni della mia vita che si è diciamo si è espresso in quella casa, e quindi ho pensato di appunto di dare il titolo ad una casa particolare che per chi ha il libro in mano, diciamo, è la prima pagina, perché si vede proprio questa strada con questa casa. Ecco, questo è la mia ultima, e poi diciamo rispetto sempre a questo mondo diciamo editoriale, rispetto a questo ho anche realizzato altre interviste, però a donne che hanno vissuto la guerra civile, e quindi sono donne sia anarchiche che comuniste. Questo sarà un libro che uscirà diciamo tra poco, si chiama Donne Contro, e quindi solo interviste a donne che hanno vissuto la guerra civile. Senti Isabella, appunto, infatti partiamo magari anche dal tuo primo libro e poi a questo punto da quello che stai preparando. E cioè, tu hai fatto anche una ricerca, da quello che ho capito, d'archivio, insomma, di fonti scritte. Ma che rapporto c'è, che differenza c'è tra appunto il lavoro con le fonti scritte e quelle orali? Cioè, che tipo di esperienza è pure interrogare la memoria, diciamo, altrui? Che percorso è stato lungo? Questo tipo di ricerca è stata fatta un po' su due binari. Da un lato sono stata per 2 mesi negli archivi storici della città di Barcellona, dove dovevo realizzare questa intervista, anche perché era la mia tesi di laurea. Una parte di questo libro è una tesi di laurea, per cui doveva avere tutti i canoni accademici per essere approvata, no? Dal mondo accademico. Però poi c'erano delle cose che neanche i libri ne raccontavano, perché si trattava proprio di storia contemporanea, cioè nessuno aveva mai realizzato delle interviste a questi militanti della guerra civile, del PUM, perché subito dopo il franchismo si erano un po' dispersi in tutto il mondo. La maggior parte di loro era andata in Messico, perché lì c'era il presidente Cárdenas che li aveva accolto tanti dei militanti della guerra civile, ma poi erano andati anche in Inghilterra, in Francia, molti in Russia o nei paesi dell'est, per cui nessuno in realtà li aveva intervistati né conosciuti. Quindi è stato un po' un libro che ha le prime diciamo 100 pagine di storia classica, no? Di archivi, e poi le altre sono proprio delle interviste realizzate agli uomini e alle donne del PUM, che hanno raccontato nella loro vita quotidiana, perché loro hanno vissuto sia la repressione franchista che la repressione stalinista, e quindi questi tipi di repressioni avvengono non solo a livello politico, ma anche a livello diciamo personale, no? Per cui dicevano, magari anche raccontavano degli episodi che potevano essere anche banali, tipo ho incontrato un franchista o uno stalinista ed è successo questo in quel momento lì, per cui se non ci fossi stata io a fare loro un'intervista non l'avrebbero mai raccontato nessun altro, no? Per cui, e questa è l'importanza poi della storia orale. Poi vabbè, quando un po' si fa storia orale, bisogna anche gli storici devono anche prendere un po' le cose con le pinze, no? Le informazioni con le pinze, perché a volte loro raccontano degli episodi che hanno vissuto anche 50-60 anni prima, per cui magari possono esaltare degli episodi o ridimensionare degli altri, perché insomma erano la spalla del 36 è stato un momento importante, glorioso, non solo per la vita di queste persone, ma anche per la vita in generale dell'Europa. C'è stato, e quindi anche quando si fanno delle interviste di storia orale bisogna anche stare attenti, no? Poi anche a vedere quello che è la realtà, oppure quello che si potrebbero addirittura diciamo inventare, no? per per così, ma anche perché la memoria, sì, i meccanismi interna, della, no? memoria sono molto articolati, insomma, non sono tutti dritti, diciamo. Ma senti, sì, fra l'altro la storia orale pone anche un altro problema abbastanza rilevante, che è quello di scegliere lo stile di scrittura, no? Di come restituire per scritto un discorso appunto parlato, che in genere ha emozioni, ha un linguaggio colloquiale, eccetera. E quindi tu come si sei mossa per restituire quanto ti hanno dato queste persone? Io ho cercato di essere, diciamo, la più fedele possibile rispetto a quello che è un passaggio tra la storia orale e una storia scritta, perché chiaramente quando si parla si spazia molto di più, non ci sono i punti, non ci sono le virgole, non ci sono i punti e virgola, quindi si va da un argomento all'altro. A volte è un po' lasciato il loro stesso linguaggio, perché magari il testo scritto può perdere delle cose, ma dà una dimensione proprio di un'intervista orale, no? Cioè è diverso. Se avessi detto loro scrivete qualcosa rispetto alla vostra esperienza, magari l'avrebbero scritto in maniera diversa. Però proprio quando ci si trova proprio dinanzi ad uno storico, in questo caso io, che gli fa delle domande che incalzanti tanto a livello personale quanto politico, diciamo si spazia. Per cui è stata un po' la scelta all'inizio mia, ma poi rispetto alla traduzione spagnola anche della Fondazione Andreunin, perché mi ha curato la traduzione, e rispetto all'edizione italiana anche rispetto alla casa editrice, che poi l'ha corretta. Per esempio a volte mi diceva: questo non si capisce bene, è meglio spiegarlo rispetto a delle sigle. Per cui è stato un po' un lavoro di equipe, però un po' ci fai delle scelte, no? Quando si passa dalla storia orale alla storia scritta, sempre delle cose le puoi tagliare oppure le puoi anche migliorare, no? Rispetto alla stesura. A volte non è facile, ecco. Sì. Poi appunto non so se vuoi aggiungere ancora qualcosa intanto su questo Voci dal Po, ma se no cominciamo anche a mettere elementi, insomma, degli altre tue pubblicazioni. Sì, rispetto a questo del Voci dal Po, io ho marcato un po' le differenze dal punto di vista politico, per esempio tra questo Po, che è un partito molto peculiare, la differenza che avevano sia con il Partito Comunista Spagnolo, perché anche tra di loro erano marxisti, però marxisti diversi, dissidenti, con le differenze, punti di contatto con il movimento poi anarchico. Per cui è un po' un libro personale, ma anche un libro politico, no? Ha moltissime chiavi di lettura, c'è ovviamente la chiave di lettura anche femminista, perché io andavo lì con un mio percorso femminista, per cui per la prima volta sono state valorizzate le donne del POM, che avevano un loro giornale, avevano una loro radio, una loro sede. Per cui sicuramente se ci fosse stato uno storico diciamo non femminista o non attento alla dimensione delle donne, non avrebbe messo in risalto alcuni aspetti, no? Che sicuramente per me sono stati importantissimi, questo diciamo. E poi la cosa più importante di questo Voce del Pollo è stato quando proprio l'ho presentato a Mosca, l'ho presentato appunto sia a Madrid che a Barcellona, mi è stato ripresentarlo a Mosca, che era proprio dove era partita la repressione nei loro confronti. È stato un momento veramente importante, questo sì, l'ho presentato nel 2011 e mi hanno chiamato anche, e quindi e lì ci sono stati anche dibattiti interessanti, anche emozionanti, no? Presentare un libro in una città tanto importante rispetto allo stalinismo, appunto, come Mosca. Era questo. Senti Isabella, ti chiediamo di rimanere in linea, che mettiamo qualche secondo di musica e poi leggiamo anche qualche riga dal tuo secondo libro. Il primo l'abbiamo letto mentre non ci stavi ascoltando, e poi torniamo a parlare con te, d'accordo? Va bene, rimango in linea, ok. Viejo, que te va a agarrar a la orilla de la playa. Caracas. Nel febbraio del 2005 c'era un foro sociale a Caracas e non volevo perdermelo. Gente proveniente da tutte le parti del mondo approdava nella città simbolo di una rivolta. La destra, appoggiata dalla CIA, aveva cercato di mettere più volte con le spalle al muro una rivoluzione sociale e aveva ridotto la distribuzione di gas nelle case. Ma la gente era scesa nelle piazze e gli anziani avevano bruciato sedi armati per non ritrovarsi l'oligarchia al potere. Il Venezuela, con la sua riserva mondiale di petrolio, è uno dei paesi più ricchi e potenti del mondo, ma la distribuzione della ricchezza è tale per cui quello che è concesso ai pochi è negato ai tanti. Educazione, sanità, diritti agli appartenenti a una casta parassitaria e bigotta. Così Hugo Chavez fu capace di dire: basta ipocrisie, basta privilegi, basta miseria sociale, e finanziò l'educazione, creò case di accoglienza e mense popolari, richiese 20.000 medici da Cuba e a Cuba diede petrolio e offrì borse di studio a studenti bolivariani e peruviani. Non ci meravigliamo quindi che la destra abbia cercato di conficcargli il coltello nel collo. Il foro sociale si svolse a Caracas in pieno governo rivoluzionario. Centinaia di migliaia di simpatizzanti provenienti da tutto il mondo vissero 15 giorni di estasi sovversiva. Io partii in bus da Lima, raggiunsi Quito e poi presi un aereo sino a Caracas. Lì avevamo treni e bus gratis, mense in cui mangiare e l'abbraccio della gente ad ogni angolo di strada, e dibattiti e cene, feste, incontri ed emozioni. C'erano circa 20.000 colombiani stanchi del governo di Uribe e di una guerra civile che durava da 40 anni. Partecipai a una conferenza su Camillo Torres e rimasi affascinata da Lucio, guerrigliero di Bogotà. Per 17 anni aveva combattuto in Colombia e Nicaragua, ma poi aveva deciso di continuare la lotta con altre armi. Ti aspetto a Bogotà, mi disse, ci sono cose che voglio che tu conosca. A Caracas entrai in contatto con donne del gruppo femminista Manuelita Sainz, che mi invitarono a tenere una conferenza sul movimento femminista italiano ed europeo. Fu davvero emozionante. Il loro personale era politico. Carla Lonzi Docet. Non appena iniziò la rivoluzione lasciai mio marito, mi disse una di loro. Non che non l'amassi più, ma mi resi conto che quella vita mi stava stretta. Non lavoravo, non studiavo, non facevo nulla al di fuori dei lavori di casa. Mollai mio marito e mi iscrissi a sociologia, poi cercai un lavoro ed entrai in gruppi femministi. Devo tutto a Chavez, dare la mia vita per lui. Manuelita Sainz era stata l'amante di Simón Bolívar quando era iniziata la lotta per l'indipendenza contro gli spagnoli nel XVIII secolo. Aveva lasciato suo marito e aveva seguito l'uomo che amava abbracciandone gli ideali rivoluzionari. Partecipò alla battaglia di Ayacucho e fu con Sucre in Colombia, Bolivia e Quito. Donna a cavallo, con un fucile in mano, salvò varie volte la vita al Libertador. Manuelita è un grande simbolo di rivolta per tutte le donne del mondo. Rimase fedele ai suoi ideali e morì in esilio a Paita, nel nord del Perù. Con il suo impeto rivoluzionario la sentivamo lì, accanto a noi. E torniamo subito in voce. Pronto, ci sei? Pronto, sì, ci sono. Ascolta, Franchino, il brano che hai letto, insomma, su Caracas. Sì, appunto, questo è un brano preso dal tuo secondo libro, uscito nel 2012, Otto Congo, che dice appunto il titolo, è il nome di un ponte di Lima, quindi della città del Perù dove è partito il tuo viaggio attraverso l'America Latina. Un viaggio che, insomma, è il tuo è un libro di viaggio, ma è un libro di viaggio particolare, insomma, un libro fatto tutto di lotte, di incontri, di militanza, di rivoluzione, di repressione, eccetera, eccetera. Insomma, non è un viaggio tout court. Sì, io sono andata lì, diciamo, la scusa è stata quella che ho avuto la possibilità di avere un lavoro stabile per 6 anni, diciamo, nell'Istituto di Cultura Italiana e nell'università, che già di per sé era un lavoro molto interessante, perché mi metteva direttamente in contatto con una realtà che conoscevo ovviamente pochissimo, che era quella peruviana. Poi lì ho avuto la possibilità, diciamo, di fare tanti tipi di percorsi, tra cui quello che hai appena letto rispetto a Caracas. Appena c'era un foro, c'era un dibattito, c'era una manifestazione, io ci partecipavo, e quindi non solo in Perù, perché io del Perù appunto sapevo solo 4 cose: sapevo che c'era stata una dittatura militare di Fujimori, sapevo che c'erano 2 gruppi guerriglieri, no, fra Sendero Luminoso e l'RMTA. Erano tutte le azioni che avevo soltanto nella mia testa, non avevo mai, diciamo, toccato con mano delle cose. E quindi, andando lì, per esempio, sono partita appunto da Lima, che è una città di 10 milioni di abitanti, molto affascinante, e lì ho avuto la possibilità di lavorare in carcere, ad insegnare italiano proprio ai guerriglieri. e quindi di lavorare sui diritti umani e di confrontarmi con la realtà che ovviamente è completamente diversa da quella europea, no? Poi non solo una realtà politica ma anche una realtà sociale, c'è un livello di disuguaglianza sociale che è spaventoso, soprattutto per quanto riguarda la scuola, l'educazione e la sanità. E quindi io mi rapportavo giorno per giorno a persone che veramente sopravvivevano con un euro e che quindi vivevano con me un sacco di emozioni e che mi facevano capire che molti dei nostri parametri europei, anche rispetto alla destra e alla sinistra, la politica lì non valevano. Quindi ho vissuto tanti viaggi, diciamo viaggi anche di piacere, perché io sono andata 2 volte in Patagonia, a Buenos Aires, in Cile, Argentina, Uruguay, Paraguay, cioè realizzavo anche viaggi di piacere, ma mentre li realizzavo, diciamo, avevo un certo tipo di crescita sia personale che poi politica. Quello a Caracas è stato uno dei momenti straordinari, no? Perché c'era il Foro Sociale Mondiale e io lì ci arrivavo come latinoamericana, perché ci arrivavo dal Perù, e quindi notavo che era una cosa straordinaria il fatto che ci fossero 20.000 medici cubani. Forse per noi europei è abbastanza scontato che quando ci succede qualcosa almeno il pronto soccorso è meno gratis per tutti, comunque le medicine, insomma, cioè certo che ci lamentiamo dell'Europa, però abbiamo dei parametri sicuramente molto alti. Ma lì in America Latina, quando hai veramente paura di attraversare la strada perché se ti investono rimani lì e nessuno ti porta da nessun'altra parte, il fatto che ci fossero questo binomio appunto in quel momento tra Chavez e Fidel Castro, cioè Chavez dava petrolio, dava medici, era una cosa veramente importante. E poi questo fatto che, come dicevo, il Venezuela è uno dei paesi più ricchi del mondo e prima di Chavez c'era una disuguaglianza sociale che era spaventosa. Quindi lui, che aveva fatto tutta una serie di attività rispetto sia all'educazione che alla distribuzione della ricchezza, era cosa che veramente ha risollevato la dignità del popolo venezuelano e latinoamericano. Perché poi ci sono stati altri cambiamenti, no? Sappiamo c'è stato c'è Correa in Ecuador, in questo momento c'è Ollantumale in Perù, c'è Evo Morales in Bolivia, c'è la Kirchner in Argentina, c'è tutto un insieme in questo momento rivoluzionario di sinistra, e per noi, diciamo, è veramente importante, no? E quindi per me è stato veramente importante realizzare questi viaggi, ma anche vederli con un'ottica particolare, no? Sia come femminista che come lesbica che come anche militante di quei gruppi lì, diciamo. A me questo tuo libro, così, se mi è permesso un commento personale, è piaciuto molto, perché ho trovato interessante e anche appassionante la formula con cui lo riporti, perché appunto tu ci racconti il tuo viaggio, quindi partendo da te, da quello che vedi, da quello che senti, che mangi, che ascolti, e però appunto intersecando questo tuo viaggio personale con tanto collettivo, cioè con tutte le lotte e le storie collettive che incontri in paesi di quelli appunto dell'America Latina di qualche anno fa, che dove però appunto già c'era quel fermento che, come tu adesso sintetizzavi, poi hanno portato, come dire, anche un nuovo panorama geopolitico di quel continente. E quindi niente, ti volevo chiedere come ti è venuto in mente di scriverlo, perché hai scelto di scriverlo in questo modo, insomma. Beh, io quando sono tornata dall'America Latina, io sono andata lì nel 2002 e sono tornata in Europa nel 2008. Quando sono tornata, onestamente non riuscivo a riadattarmi, e forse ancora oggi non mi riesco a riadattare ad un sistema europeo che in un certo modo mi appartiene. Ero proprio una disadattata qui, no? Nel senso che capivo che c'era qualcosa in me che non quadrava, che c'erano delle cose che mi mancavano tanto e che quindi dovevo metterle giù, dovevo scriverle. Del resto sentivo di aver vissuto delle esperienze straordinarie, nel senso che ho conosciuto sia persone politicamente interessanti come guerriglieri, o anche persone che hanno vissuto anche violazioni dei diritti umani, o anche i miei stessi studenti, diciamo, no? Perché io insegnavo all'università, per cui il rapporto è proprio con degli studenti che quando scendono in piazza per manifestare magari vengono arrestati, e quindi avevo vissuto delle cose anche a livello personale, come anche la mia, il mio rapporto con la mia compagna, no? Viaggiare con una donna che è la mia compagna e renderlo pubblico in paesi come latinoamericana, come in America Latina, diciamo, è un'esperienza anche molto importante. E quindi nulla, tutto ciò è stata la necessità mia anche di chiudere, no? Di chiudere come un gioiellino, di tenere questa esperienza che per me era stata straordinaria e di chiuderla in un libro. È come metterla lì, tenerla e ogni tanto ad andare lì ad attingere quando ho bisogno di un po' di energia, diciamo. Beh, però poi l'hai pubblicata e quindi l'hai anche regalata a noi e a tutte, insomma. Sì, sì, sì, per me il fatto che per esempio ascoltare è molto, molto emozionante, per esempio quello che tu hai letto prima di Caracas, perché l'ho scritto tanto tempo fa, e vedere che c'è un'altra persona che lo legge, che io sia capace di trasmetterla, è un'esperienza veramente anche bella questa, no? Perché ci sono delle cose che poi alla fine, non rileggendole, quasi le dimentichi, no? E quindi quando poi senti che un'altra persona le legge, le fa proprio, ci riflette, non so, questo libro è stato importante anche per molte persone che hanno viaggiato in America Latina, che quindi l'hanno letto prima di andare, oppure molte persone che dopo averlo letto sono andate lì, proprio per questo sono andate lì, no? Perché magari c'è un po' un fritto misto, perché ci sono degli elementi politici, altri personali, altre delle curiosità, no? Forse è un po' un libro che avrei voluto io leggere quando sono andata lì, che non ho trovato, perché se trovi quei libri turistici non sono sufficienti, perché noi andiamo lì in America Latina con una sensibilità sociale, per cui insomma solo dei libri per turisti non ci stanno stretti, per cui questo libro è piccolino, perché è un po' facile da leggere, così si legge solo in qualche ora, però allo stesso tempo io credo che apra molti mondi, no? Sì. Almeno questo è quello il feedback che mi hanno ridato le persone che l'hanno letto, per cui nulla, per me è stato importantissimo scriverlo a livello personale proprio, poi non voglio dire tante cose, però ci sono delle esperienze anche molto importanti della mia vita che mi hanno marcato tanto, non le voglio raccontare tutte perché magari poi per chi lo legge può essere anche una curiosità piacevole o non piacevole trovarle. La cosa importante è che è un libro di viaggio, un libro leggero, e per questo l'introduzione l'ha realizzata Porpora, che è la presidentessa del movimento di identità transessuali, no? Sì, perché, sì, una voce anche molto conosciuta da questa radio, insomma, Porpora. Come? No, dicevo, è anche un nome molto conosciuto da questa radio, insomma, questi microfoni ha parlato molte volte, ecco. Eh sì, e quindi Porpora, sì, è un personaggio a Bologna, è stato un personaggio importante nella mia vita perché ci conosciamo da tanto tempo, e quindi perché ci sono tante maniere, diciamo, di viaggiare, no? Si può viaggiare col proprio corpo, anche prendendo una valigia e andando dall'altro lato del mondo, ma si può anche viaggiare rimanendo fermi e vedere anche il proprio corpo che cambia, per cui per me è stato importante anche questo incontro con Porpora, no? E questa maniera anche di mettere insieme la mia esperienza con la sua. Sì, diciamo che veramente tu hai vissuto mille vite, noi staremo ad ascoltarti veramente per tanto tanto tempo. Hai vissuto per molto tempo dall'altra parte del mondo, come ci stavi raccontando, però a un certo punto, introducendo un po' il tuo terzo libro, Storia di un femminicidio, c'è stato un momento in cui le tue origini ti hanno iniziato a richiamare indietro. Tu racconti una storia di un femminicidio che non finisce con un omicidio, come anche raccontiamo molte volte qui dai microfoni di questa radio, perché femminicidio non vuol dire solo che le donne vengono uccise, ma vuol dire che vengono perseguitate, torturate e segregate solo per il fatto di essere donna. Tu a un certo punto stavi dall'altra parte del mondo e la tua famiglia ha iniziato a richiamarti, e tutta questa storia che tu ci hai voluto raccontare, che è breve ma veramente molto molto intensa, gira intorno ad una casa che poi non è mai arrivata, no? È quella la stessa che c'è poi sulla copertina di cui ci parlavi prima, ed è una storia che, se magari ci vuoi raccontare, io ho trovato veramente molto forte. Sì, è un po' un essere molto forte innanzitutto perché partendo un po' rispetto a quello che è il mio percorso, diciamo, io mi sono iniziato a occupare della storia degli altri facendo storia orale, ma poi anche mi sono resa conto che anche la mia storia, anche se piccolina, non è una storia importante da raccontare. Innanzitutto perché così iniziando a scrivere bisogna sempre mettere anche la propria vita, no? Renderla pubblica, perché tutto ciò è il personale politico, quello che abbiamo sempre detto, quindi anche le nostre storie, seppur piccole, sono degli esempi anche per delle altre donne. Per me è stata un'esperienza drammatica, diciamo, quella che racconto, perché anche in America Latina ho vissuto delle esperienze veramente molto forti, tra un terremoto 7.9, tante volte ho rischiato la vita in America Latina, mentre l'esperienza che posso dire più drammatica per me è stata proprio il rientro in casa, cioè la casa che dovrebbe essere per tanti di noi e tante di noi un rifugio, no? Un luogo sicuro, e per me non lo è stato. Per cui paradossalmente fra tante peripezie che ho vissuto nella mia vita, proprio ritorno al luogo della mia origine, cioè Rossuni, è stata un'esperienza drammatica, perché io ho vissuto un femminicidio e lo vivo continuamente anche adesso, perché insomma ho raccontato la storia un po' della mia famiglia, perché io avevo, dopo la morte di mio padre, diciamo, sono rimasti sia mia madre che mio fratello, e mia madre al figlio maschio da tutto e la figlia femmina, perché femmina non da nulla, quindi prima si parlava solo di effetti, ma poi si inizia a parlare anche di cose materiali, cioè mio fratello ha assolutamente sempre avuto tutto dal punto di vista materiale e a me è sempre stato negato tutto, non abbiamo neanche una proporzione di 70 e 30, neanche di 80 e 20, abbiamo proprio il 100% dato a lui e a me zero, cioè io quando vado su studi devo andare in affitto, mio fratello c'ha tre case e mio fratello c'ha tutto, c'ha l'accesso al bancomat di mia madre e questo, no? E quindi appunto da quando c'è stata la morte di mio padre è stato lui che è stato il padre padrone, sono le redini economiche della famiglia, e io sono la sorella non desiderata, la figlia non desiderata. Però la cosa che mi ha... Scusami, no, ti ho interrotta, vai. Sì, questo è stato un po' da sempre, un po' rispetto agli affetti, perché io sono sempre stata un po' ribelle, un po' prima perché ero comunista, poi perché ero alternativa, poi perché mi vestivo così, poi perché volevo studiare le scienze politiche, poi perché frequentavo la gente, i fumo, la gente che si faceva le canne, ma poi con il tempo, e niente, quando c'è stata proprio la divisione dei beni di mia madre, che c'è ancora, cioè mio fratello è andato assolutamente tutto e a me non è andato assolutamente nulla, nel senso che mi hanno per 20 anni promesso una piccola casa che stava a punto di cadere, mentre mio fratello ne ha una di 160, più una di 70, più un'altra, cioè mio fratello vive proprio come un re, e quindi quando sono tornata a casa non mi hanno dato nulla. Ma la cosa che mi ha colpito molto di... Quindi questa storia continua. Sì, no, la cosa che mi ha colpito molto di questo libro, anche se breve ma come diciamo molto intenso, è stato il modo in cui la famiglia ti richiamava, no? Ti richiamava ai doveri, quindi dovevi tornare perché questa casa andava risolta, però nel momento in cui andavi là la famiglia non sapeva bene come rapportarti a te, perché era una donna che aveva studiato, una donna che aveva lottato, che aveva fatto tante cose, magari è una situazione che viviamo tante di noi, no? Ci sono tante persone che non sanno rapportarsi a delle donne che hanno in mano la propria vita, per cui tu tornavi lì e ti si facevano delle richieste, però in realtà non si sapeva bene dove collocarti, anche tu ti trovavi in una situazione di estremo disagio. E anche un'altra cosa molto bella che tu dici per presentare il tuo libro, leggo, insomma ti cito: facile parlare della discriminazione che vivono le donne in tante parti del mondo, vediamo le afghane col velo, le saudite lapidate, le africane circoncise, le algerine infibulate, però poi in realtà la famiglia, diciamo, che è oppressiva in tutte le parti del mondo. Sì, perché cioè, voglio dire, magari molte di noi vivono dei disagi tipo quello che ho vissuto io. Oddio, io credo che un po' che hanno questa situazione estrema, perché io dico, magari ad una madre, ad una donna da sempre il 60, il 40%, ad un uomo dal 60, questi sono nel sud più o meno i parametri, oppure un 70 e un 30, e le donne noi ci accontentiamo. Nel mio caso io non mi posso accontentare, perché non c'è neanche il 5% di che mi dà mia madre, cioè nel senso che tutto il potere economico e anche il potere è dato assolutamente tutto a mio fratello, per cui non c'è neanche la possibilità di mediare con niente e con nessuno in questo senso. e quindi nulla, quando io sono lontana, quando io ero lontana mi volevano vicino, perché tanto da lontano sembrava che non dessi fastidio, e poi perché quando sono arrivata vicino, insomma, niente, dal punto di vista materiale mi hanno negato tutto. Per me è stato terribile, fino al punto di dover scegliere di rompere con mia madre e con mio fratello, che sono gli unici che ho della mia famiglia, per cui chiaramente questa è una scelta radicale che ho dovuto fare in questo momento, e perché non ho alternativa, diciamo, questo è il punto, e questo... quindi andrò avanti su questa linea, perché non c'è possibilità, diciamo, di mediare con persone che non mi vogliono dar nulla, perché non mi riconoscono neanche come persona, questo è il punto. E però, insomma, hai avuto il coraggio e anche la forza, insomma, di renderlo pubblico, sì, e di farne una storia che noi abbiamo letto, appunto, con molta intensità, non so se con la stessa con cui l'hai scritto, ma insomma sono storie poi che risuonano magari con particolari diversi nelle vite di tante. Volevo aggiungere rispetto a questo, per esempio, mi hanno chiamato proprio ieri per presentarla ad Ostuni, e io credo che tra le tante presentazioni che posso fare di questo libro, e perché ogni volta che parlo di questo tema, chiaramente è un tema che per me provoca molto dolore, molta sofferenza, però il fatto che il 9 agosto lo presenterò a casa mia, nella piazza di Ostuni, accanto a quella che è la casa di mia madre, a quella che è la casa di mio fratello, che in realtà sono anche case mie dove io non ho accesso, per me sarà veramente emozionalmente molto forte. Però io ho pensato che se l'ho scritto è per montare una campagna per tutte le donne a cui viene negato tutto, come a me in questo caso, per cui se mi chiamano io ci devo andare e affronterò quello che c'è da affrontare, cioè tipo addirittura forse anche mia madre e mio fratello si possono anche mettere a gridare nei miei confronti, ci possono essere anche dei problemi, no, familiari, però se l'ho scritto io quello che sostengo, e quindi spero di avere l'appoggio anche delle donne, delle femministe, delle lesbiche che insomma si sentono identificate con questo mio libro. Senti, a parte ovviamente non ci saremo con il corpo, ma saremo là con te, però ce ne sono anche altre, no, di presentazioni in programma di questo libro. Mi parlavi di una presentazione a Milano, al Conchetta. Sì, adesso il 3 luglio, cioè la settimana prossima, presento il libro ad Empoli, poi il 16 luglio al Conchetta di Milano con il centro sociale, il 18 luglio a Salonica, appunto in Toscana, e nell'ambito di iniziative sull'America Latina, poi abbiamo l'8 agosto ad Alberobello, e il 9 agosto, appunto, la data che vi dicevo, appunto, lo presento ad Ostuni, sarà per me la data più emozionante, più drammatica, perché appunto lo presento a casa mia, un libro in cui denuncio cose e violenze che mi sono successe proprio lì, a due solati dal posto dove lo presento, per cui sarà molto importante anche questo, l'ultimo. Queste sono, diciamo, le prossime date rispetto alle presentazioni. Senti, vuoi dare qualche riferimento per leggerli i tuoi libri? Si può andare sul sito della casa editrice per vederne, insomma, una sinossi, una presentazione, e poi, insomma, li ricordiamo. Sì, rispetto ai libri, diciamo, per chi è a Roma, per chi fosse a Roma, sicuramente ce l'ha la libreria che è in Campo dei Fiori, la libreria Fahrenheit. Quindi ha tutti e 3 libri, e poi avrà anche quegli altri che usciranno, perché tra un po' sarà un libro anche sulle donne e la guerra civile, per cui loro prendono appunto i libri che io pubblico. Quindi la libreria Fahrenheit in Campo dei Fiori sicuramente ha tutti i libri che io ho pubblicato sino a questo momento. Poi in Puglia ce ne sono vari, tra cui ad Ostuni, a Bari, ma anche a Bologna, diciamo, ce ne sono 3, c'è la libreria delle donne, la libreria Trame via Goito 3 e la libreria Geolesbica. Poi nulla, per chi mi volesse contattare direttamente, magari anche tramite la radio, oppure anche tramite il sito della casa editrice, sicuramente in tutta Italia sono disponibili, diciamo, i libri. Sì, poi noi daremo adesso in chiusura, ricorderemo i titoli e anche appunto la casa editrice, e ci raccomandiamo di farci sapere se farai qualche presentazione a Roma, e poi di venirci a trovare, insomma, fare la prossima presentazione, il prossimo libro, anche qui, visto che sei una viaggiatrice sempre in transito, abbiamo capito. Sì, prima o poi passerò per Roma, sì, quando passo per Roma sicuramente, con molto piacere. Infatti. Ebbene, noi ti ringraziamo, Isabella, per questa tua partecipazione al mini pimer del martedì autogestito da femministe e lesbiche di Radio Onda Rossa, e ti salutiamo. Grazie a voi, ci vede, ci sento presto. Sì, un buona abbraccio. Ciao. Ciao, ciao. Grazie, grazie. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Te quiero, quieres, llorona, que yo la muerte reciba. Si porque te quiero, quieres, llorona, que yo la muerte reciba. E allora ricordiamo appunto i titoli dei libri di cui abbiamo parlato. L'autrice è Isabella Lo Russo, i libri sono Spagna 36, Voci dal POUM, una serie di interviste appunto a militanti uomini e donne del POUM, del Partito Operaio, bene, marxista, siamo d'accordo, non mi ricordo, e dopo lo ridiremo. E poi un altro libro è Otto Congo, e poi T13, storia di un femminicidio. La casa editrice è una piccola casa editrice che si chiama Ibiscos Editrice, e comunque digitando poi il nome di Isabella Lo Russo trovate anche i suoi volumi. Chiudiamo. Con questo chiudiamo il mini pimer di questa sera e chiudiamo anche il mini pimer di questa stagione del martedì autogestito da femministe e lesbiche, perché finiscono qua le trasmissioni di quest'anno e riprenderanno ovviamente dopo l'estate. Bene. E quindi niente, vi lasciamo a qualche traccia musicale e poi proseguiranno, insomma, le trasmissioni del martedì autogestito. Un saluto. Ciao.